בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. E così è Natale. Per i deboli e i forti. Per i ricchi e i poveri. Il mondo è così sbagliato. And so this is Christmas. And what have you done? Another year over. A new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one. The old and the young. And very Merry Christmas. So this is Christmas. War is over. We can fall strong. The rich and the poor. War is over. The road is so long. So happy Christmas. L'ho voluta proprio mettere così questa canzone, ci mancherebbe altro. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino che anche oggi è qui presente per tenervi compagnia assieme al suo fedele compagno, qui fischia tutto, stiamo cercando di regolare, non abbiate paura, siamo qui, stiamo regolando perché ci sono tantissime persone, sono, non so, le hai contate Maurizio? Sono tante, però è piacevole, piacevolissimo, posso dire così, piacevolissimo di essere sempre nel centro, stavolta siamo al centro, più centro che non si può chiaramente, bellissimo. Poi iniziare con John Lennon, ragazzi, la cosa più bella che esiste. Buonasera e soprattutto buon Natale. Buon Natale. Buon Natale a tutti voi ascoltatori di Blu Radio Veneto. è il nostro regalo di questa sera, quindi ogni anno c'è questa, diciamo, ricorrenza. Abbiamo pensato io e Maurizio di farla proprio per regalarvi tre ore di canzoni dedicate appunto alle festività natalizie, e non solo, quindi ascolteremo le canzoni, quelle diciamo più famose, ma anche non solo, anche le carole, le famose carole natalizie. Cosa hai preparato, Maurizio? Abbiamo preparato assieme qui i nostri solisti praticamente 12-13 pezzi di canzoni natalizie, le cosiddette carole di Natale anglosassoni, che amo particolarmente. Non famosissime, alcuni pezzi sono famosissimi, altri non meno famosi, perché vogliamo sentire, vogliamo ascoltare, vogliamo indagare, vogliamo conoscere anche queste canzoni non prettamente famose, sempre natalizie, con grande atmosfera, indubbiamente. Allora, chi abbiamo questa sera? Li presentiamo tra qualche istante. Io devo dare, come di consueto, i nostri dati. Allora, per quanto riguarda le nostre frequenze, sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. E poi ancora i nostri numeri di telefono, quello in studio è lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli SMS, vi ricordo, il 346-23-20-033. Però vi sottolineo il fatto che se state ascoltando il giorno di Natale non mandate messaggi, non telefonate, perché è una trasmissione registrata, quindi andrà in onda anche appunto il giorno di Natale. Questa sera invece li accettiamo in SMS, anche per rispondere alle vostre, ai vostri saluti, per salutare questa compagnia, è proprio il caso di dire, che sono venuti a ritrovarci dopo la serata con Mamma Mia. Abbiamo di nuovo qui la compagnia Mouge, questa sera in versione natalizia. Ci sono tanti cappellini, microfoni. Hanno perso anche una renna, il solista ha perso la renna, hanno perso un qualcosa della renna, vero? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ben ritrovati qui a Blu Radio Veneto. Grazie. Tutti quanti abbiamo deciso di iniziare con John Lennon, erano tutti d'accordo, perché John Lennon dà l'atmosfera, anche se, ragazzi lo sanno bene, anche i nostri ascoltatori, non è prettamente un canto natalizio, è diventato poi un canto natalizio, è un canto pacifista, che John Lennon ha ripreso, ha riadattato, è diventato una delle canzoni di Natale più eseguite, forse la più eseguita, siete d'accordo, sicuramente. Sono in tanti, li vogliamo presentare prima di, sì, insomma, di ascoltare poi le loro versioni delle canzoni famose di Natale. Io ho una lista, non è casuale, quindi non faccio preferenze. Allora c'è Elisabetta Nalon. Ciao. Antonella Scambia. Ciao. Francesca Micheletti. Ciao. Giulia Allegro. Ciao. Cesare Bortolotto, beh, lui è la tappezzeria della radio. Ciao. Davide Cirillo. Ciao. Laura Tonnarelli. Buonasera a tutti. Giulio Di Vittorio. Ciao, buonasera. Elena Maci. Ciao a tutti. Erika Zanchetta. Eccomi qua, ciao. Umberto Peroni. Ciao. Martina Pinton. Ciao. E Adriano Pellegrini. Ciao. Sono tutti, eh. C'è anche il nostro chitarrista, eccolo qua. C'è anche Giovanna, ovviamente, che mi dà una mano qui in regia, perché insomma collabora anche lei effettivamente con me. E poi abbiamo Gilles, che come si è ritornato dopo un periodo di assenza, è ritornato. Gilles. Ciao a tutti, ciao. Lui l'ha detto alle foto questa sì, sera. Sì, proprio stasera è indispensabile, anche dal punto di vista fisico, non c'è proprio spazio, assolutamente. Allora, chi è il frontman questa sera? La tappezzeria o c'è qualche femminuccio? La tappezzeria, sempre la tappezzeria. Meglio che sia un altro. Adesso arriva le cuffie. Una femminuccia, sì, sì. Chi è che mi dà retta? Nessuno? Nessuno. Antonella, voglio te. Ecco, adesso Antonella prende le cuffie e fa al microfono, praticamente guida il discorso. Allora, non me l'avevi detta questa, potevo prepararmi. È tutto in diretta, si cambia. Dici tu, cosa ci fate qui questa sera? Cosa ci facciamo qui questa sera? Beh, vi proponiamo il meglio delle canzoni di Natale nella nostra versione, un po' con l'aiuto di Adriano alla chitarra. Peccato ci mancano altri musicisti, ma non potevano venire. Chissà se magari poi ci raggiungono. Insomma. Potrebbe essere una bella sorpresa. Possiamo, e speriamo che sia così. Poi ancora? E cosa? Tante canzoni di Natale, ma vogliamo farle, se no. Oppure devo aggiungere io la prossima? Sì, se vuoi farlo speaker, poi farlo. Ok, allora, adesso eseguiremo Let It Snow. Che è una canzone americana del 45. Esatto, un grandissimo successo. Un po' swing, Maurizio. Un po' molto swing. È stata disegnata, costruita nel giorno più caldo di quel Ferragosto del 45. Pensate. È un giorno caldissimo, è diventata una canzone di Natale. Fantastico. Poi l'hanno fatto Bill Crosby, Frank Sinatra, un sacco di gente. Ecco, stasera invece la farà Erika Zanchetta, ma perfetto. Non vi deluderà. Perfetto. Non mancherà. Quando siete pronti me lo dite. Che... No, volevo dire una piccola curiosità. Ah, eccolo, sì, eccolo. Ladies Know, sigla finale di tutti i film di Die Hard con Bruce Willis. È vero, hai ragione. Ma dai, questo non ci avevo fatto caso. Allora, ci ascoltiamo la canzone. Quando siete pronti me lo dite e andiamo. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Many thoughts show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. But if you really grant me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. È un po' difficile stasera avere quante persone sono? 3, 6, 9, 12, 13 persone in studio più Maurizio, insomma siete veramente 14, 14 sì, più Maurizio c'è cioè proprio più in questo senso proprio più il nonetto, nonetto. Sì, nonetto. Però è bello, emozionante, secondo me molto emozionante. Allora, questa canzone era Let It Snow, che ce la racconta un po'? Beh, musicalmente, come ha detto giustamente Antonella, è un pezzo molto swing, scritto nel 45, eseguito da Bing Crosby, Frank Sinatra, quanti musicisti swing al 100%. La versione che mi avete dato è leggermente meno swing, ma sempre swing secondo me, cosa dite? L'idea è quella, Cesare. Certo, certo. Mettiti davanti il microfono. Sì, l'idea, cioè, l'idea è proprio di una tipica canzone molto americana. Esatto, si sente che è molto americana. Nel senso del New York, New York invernale. Esattamente, anche se è stata scritta a Ferragosto. Certo, però certe volte può capitare. Sì. No, è molto bella, molto divertente. Let It Snow è un pezzo divertente. È un pezzo americano al 100%, quello sì. Certo. È proprio questa caratteristica. Bene. Adesso cosa ci ascoltiamo ancora? Adesso perché loro so che ne hanno tantissime, sì, di canzoni. Ne hanno tante. Ne vogliamo ascoltare un'altra. Poi facciamo una presentazione come si deve, perché questo è un pezzo storico. Magari sì, esatto. Assolutamente sì. Storico, vero Antonello? Un pezzo storico. Storicissimo. Storicissimo. Storicissimo. Beh, insomma, io voglio sentire anche qualche altra voce oltre alla tappezzeria. Insomma, che ci fa? Laura, tu se vuoi dirci qualcosa. Beh, è la canzone di Natale per eccellenza, dai. È quella sì, quella che scalda il cuore, via. Che si chiama? Silent Night. Prego. Ok. Silent Night, all in night. In heaven. heavenly peace. Silent night, holy night, shadows quake, held aside, glory's tree for heaven's afar, heavenly hosts singing hallelujah. Bellissima, posso dire una colorazione molto nera, assolutamente nera, siete d'accordo? Molto soul, decisamente. Un tentativo. L'arrangiamento è stato fatto da Adriano. Ringraziamo Adriano per l'arrangiamento, chiaramente, perfetto. Dobbiamo solo ricordare, Antonella, che questo è un patrimonio dell'umanità dall'UNESCO del 2011, è stata considerata patrimonio dell'umanità questa canzone. Ti ringraziamo per l'informazione perché dubito che qui qualcuno di noi lo sapesse. Siamo piuttosto onorati allora di averla cantata, grazie ad Elisabetta, la Elisabetta sua voce. Ha fatto proprio una voce soul, proprio nera, assolutamente nera secondo me. È stata scritta in Austria nel 1818, quindi nell'impero asburgico, esattamente. Quante informazioni nuove questa sera, cose che ignoravo prima d'ora. E ti ha appena detto che è stata scritta nell'impero asburgico, per fortuna che non l'ha dovuta cantare in tedesco però. Esattamente, esattamente. Sì, Adriano è riuscito a fare questo arrangiamento perché lui c'era in quell'epoca. Torniamo in America. Sì, volevo solo ricordare che Silent Night ha fatto una versione meravigliosa, Simon Garfunkel, un album di alcuni anni fa, molto particolare, stavolta quasi nera, nera nel senso no di black, proprio nera oscura. Simon Garfunkel, musicisti straordinari che tutti conosciamo, molto natalizi qualche volta secondo me. Sì, in effetti sì. Può essere. Io prima di continuare, se mi permettete, non abbiamo ancora detto niente di voi, insomma, chi siete, cosa fate, cosa non fate, insomma, cerchiamo di farvi anche un po' di pubblicità e di onore, insomma, per quello che fate. Chi siete, chi è la compagnia Muse? Adesso ho bisogno del... vieni tu? Mi stai ascoltando? Mi hai dato pizzeria. Cesare, no, volevo dire, ti stavo dicendo, cerchiamo di far conoscere un po' di più, insomma, la compagnia Muse, sì, al pubblico. Chi siete, cosa fate? Allora, noi diciamo che facciamo prettamente musical, abbiamo appena fatto Mamma Mia, che tu hai visto. Tra l'altro abbiamo un cast... quasi al completo stasera di personaggi attori. quasi, no, sì. Perlomeno quelli principali. Sì. Poi dal 2008 ci è venuta questa ispirazione di fare un piccolo spettacolo natalizio. È partito, come tutte le cose che partono da noi, era partito come una cosa molto piccola, come un coretto, e poi si è trasformato in un vero e proprio spettacolo, perché alla fine, essendo noi già in molti e abbracciando gli vari aspetti dello spettacolo riusciamo a fare non solo un canto di Natale ma anche condito con delle parti recitate e delle coreografie. Recitate, c'è qualcuno che ci può recitare qualcosa? No, perché no. Manca non ci può recitare manca nessuno. Manca Alessandro, a parte Alessandro. Manca l'attore principale. Ho capito. Che sarebbe? Che è Michele, che tu hai visto nella parte di Sky su Mamma Mia. Ah, vero, sì. E esatto. Quindi non si può fare. No. Vabbè, allora ce la teniamo con la curiosità. Questa sera volevamo fare volevamo portare proprio un concerto natalizio. Certo. Ti sei portato una bella band, insomma, questa sera. E il bello è che voi siete veramente molto uniti. Io ho avuto modo di conoscervi, insomma, in questo periodo e vi ho sempre trovato molto uniti, sì, tra di voi, molto amici. Insomma. Sì, sì, sì, è vero. E poi ci accoltelliamo fuori, no, adesso siamo a Natale, non può essere, assolutamente no. So che avete un concerto prossimamente, uno spettacolo. Sì, sì, il 22, sabato, che è sabato questo, ad Albignasego, al Palazzetto Polivalente, la nostra seconda casa praticamente, facciamo Notte di Natale, che è appunto lo spettacolo che ho quindi, appena detto. Questo vale per chi ci sta ascoltando adesso, non per chi ci ascolterà il giorno di Natale. Chi ci ascolta il giorno di Natale se l'è perso. Oppure l'avrà visto e allora magari lo ascolta ancora più volentieri. Ecco. Cosa volevo chiedere? Adesso passiamo alla parte musicale. Insomma. Esatto, sì. Adesso abbiamo scelto nella scaletta. La scaletta è stata fatta dalla compagnia su pressione mia, purtroppo. È stata una piccola pressione mia, perché l'idea mia e di Agostino di presentare i pezzi non prettamente famosi. Questi sono famosi, però ci sono dei pezzi non prettamente famosi. E bellezza del programma è proprio questa: esplorare, conoscere. Infatti. Santa Claus is Coming to Town, un pezzo del 30 esattamente, del 32, un pezzo assolutamente americano, decisamente americano, fatto da Bing Crosby e da altra gente, molto soul secondo me. Vediamo come lo fate voi stasera. Santa Claus is Coming to Town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when. He knows you've been a better good, so good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, yeah. Little tin horns, little toy drums, Rudy toot toots and rummy tom toms. Santa Claus is coming to town. The curly the kissing girl and boiling will have a jubilee. They're gonna build a talent town all around the Christmas tree. You better watch out, you better not cry, you better not cry, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You've been no better good, so be good for goodness sake. So you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming Santa Claus is coming. He's coming to town. Sì, l'ha fatta anche Michael Bublé, ma l'avete fatta bene anche voi. Assolutamente, assolutamente. Proprio musical, assolutamente musical. Perché partite dal musical, avete fatto tante musical. E questa è una versione, non dico musical, ma quasi, secondo me. Molto swingante. Il cantante era proprio in forma, il solista sì, proprio scatenato alla Bing Crosby stasera. Merito anche del gruppo. E soprattutto delle rene che ti sono cadute. Ti sono cadute, esattamente. Peccato non avere le webcam, Maurizio. Esattamente, sono tutti, erano tutti in movimento i solisti, il coro. Si muovevano ritmicamente, proprio danzavano sulle note di questa famosissima canzone americana. Bellissimo. Allora, Natale questa sera qui a Blu Radio Veneto, e Natale sarà ovviamente anche con la musica, perché questa è una tradizione nostra, come dicevamo all'inizio, di far ascoltare le canzoni, anche non solamente quelle più famose, ma anche quelle meno conosciute. Credo che la prossima invece sia molto conosciuta, se non sbaglio. C'è una cosa però da dire. Dimmi. Se volete fare una piccola pausa, io quando me lo dite voi ve la faccio, non c'è nessun problema. Beh, parliamo un momento del motivo per cui ho premuto, assolutamente premuto su Cesare per fare The First Noel. Primo, perché l'ho sentita da Annie Lennox, meravigliosa. E poi The First Noel non è una canzone che si sente spesso e volentieri in Italia, secondo me. E sono stati bravi e coraggiosi a cercare di prenderla in repertorio. Complimenti veramente. Io ho premuto, sono arrivato all'obiettivo. Questa è una canzone del 1814, quindi, cioè, che ha molto tempo. Comunque sono stati gentilissimi, perché li abbiamo costretti, tra virgolette, sì, assolutamente costretti, in brevissimo tempo, neanche 20 giorni se non sbaglio. Chi è che mi risponde? Una di voi che voglia rispondere? Uno. Che sforzo c'è per fare un pezzo che non è proprio in repertorio di tutti, come The First Noel? Beh, chi risponde? Potrebbe rispondere Erika, che la deve cantare. Esatto. In realtà devo ammettere che stavo seguendo il mio maestro Adriano e non ho sentito la domanda. No, la domanda è questa, cioè che difficoltà hai avuto a fare un pezzo simile che non è così famoso, così nelle corde di tutti? In realtà devo essere sincera, l'ho provata oggi per la prima volta. Bene. E probabilmente la proverò per la prima volta veramente questa sera con Adriano e per quello che ci stavamo guardando. Quindi ecco, la mia difficoltà sarà che la farò per la prima volta in questa radio questa sera. Bene, sicuramente sarà un'ottima esezione. Io l'ho sentita nelle prove qualche minuto fa, decisamente ottima. Okay. Quando siete pronti me lo dite che partiamo. Siete pronti? Siete già... Tu sei pronto? Ok. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No. Blood mankind has bought. No. Noel, Noel, Noel, Noel. Born is the King of Israel. Noel, Noel, Noel, Noel. Born is the King of Israel. Bravissima, bravissima, bravissima. Proprio sofferta in senso positivo del termine, con tanto pathos. Sì, sei andata benissimo con Adriano, ti ha seguito perfettamente. Niente di negativo, assolutamente. Perché ridi? Adriano è sudato. Dai, è stata la nostra prova, ecco. Ma è bello che Adriano sia sudato, vuol dire che ha sentito il pezzo, assolutamente l'ha sentito. Cosa dici, Agostino? Sì, sì. Sì, ancora beh, meglio. Ho visto Erika molto intensa nel cantare questa canzone. Probabilmente la sente anche dentro di se stessa, giusto? Aspetta che non aveva le cuffie. Ecco, adesso hai le cuffie. Dimmi, Agostino. No, ho detto che ti ho visto cantare questa canzone in maniera molto intensa. Vuol dire che la senti anche tu dentro di te. Sì, sì, è bellissima, è bellissima. Infatti quando Cesare ha chiesto chi ha voglia di farla, non è che mi sono tirata indietro, ecco. Poi hai notato, Agostino, c'era un silenzio tombale, nel senso positivo del termine. Erano tutti preoccupati. No, erano preoccupati. Volevano sentire la tua voce. Volevano sentire la tua voce. Che... Volevano sentire la tua voce, non erano preoccupati. Volevano sentire la tua voce, assolutamente. Bene, adesso li facciamo veramente riposare un pochino, anche perché per risistemarci, perché è stato un inizio un po' traumatico. Ma insomma, comunque, questa è Blu Radio Veneto, la voce di Agostino con Maurizio, ma soprattutto con la compagnia Mouche, sono tantissimi, come dicevo, con questa serata dedicata a Natale. Questa piccola pausa la facciamo con un gruppo originale, gruppo gospel, tra l'altro, con una canzone che ha tantissimi anni, la conoscono tutti, questa Amazing Grace. Amazing grace, oh how sweet a sound that saved a wretch, Lord, like me. Oh, I'm once was so lost, but now I'm found. I was blinded, but now I see. It was grace that taught my poor heart my fears relieve. Oh, how precious did God's grace first appear, the hour I first I once was so lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Many a danger, toils and snares, I've already, Lord, I've already come. Oh, with grace has set my poor spirit free. Lord, the moment I first believe, oh, amazing grace. such a wretch like me. Oh Lord, I once was so lost, but now I'm found. I was blinded, but now I see. Oh yes, I do. I once was lost, but now I'm found. I was blinded, but now I see. Blue Time Live. Blue Time. Live. La voce era quella di John Orleans, una voce bellissima, insieme al Gospel Choir feat, appunto, John Orleans in questo disco che si chiama Collection, Gospel Collection. Ci sono delle canzoni straordinarie come We Are the World, la conoscete, What a Wonderful World, Bridge Over Troubled Water, c'è A Little Bit of Love. Insomma, è un disco per chi vuole regalare emozioni durante il periodo natalizio, da avere, se lo trovate ovviamente. Insomma, un disco con la copertina totalmente bianca, The Gospel Collection. Benissimo, abbiamo sentito quindi un pezzo gospel assolutamente natalizio. Adesso presentiamo un pezzo che decisamente è il Natale, praticamente è identificato con il Natale. Si chiama Jingle Bells e lo conoscono tutti. Praticamente è stato scritto nel 1857, molti anni fa, ma è diventato successo mondiale, soprattutto nell'interpretazione di un certo personaggio che si chiama Bing Crosby, e Bing Crosby ha sempre azzeccato sempre le canzoni natalizie. Siete pronti per questa versione molto particolare, assolutamente diversa? Dimmi Adriano, vuoi dire qualcosa? Sì, adesso ti do il microfono. Vai. Sono un po' orgoglioso di averla un po' arrangiata io. L'hai arrangiata te? Sì, ecco. Bravo Adri. È un pezzo quando lo facciamo proprio riscuote un grande successo, quindi è molto molto movimentato nel senso positivo del termine. Ti vedo già teso. Infatti, pronto. È un peccato che non si riesca a vedere Adriano quando la fa dal vivo, perché qua dà proprio il meglio di sé come direttore del coro. Sì, ma l'abbiamo visto prima quando faceva le prove. Adriano dirigeva assolutamente tutti quanti con i movimenti delle mani, perfetto, straordinario. L'ascoltiamo. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is this to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is this to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Over fields we go laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun is this to ride and sing a sledding song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. And jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is this to ride in a one-horse open sleigh. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those. jingle bells all the way. Jingle all the way. Wow. Maurizio, hai visto che bellissima, grida? Bellissima l'impostazione del coro delle voci. Adriano dirigeva in modo impeccabile. Adriano, vieni vicino al microfono, dici qualcosa, dai. Dirigevi in maniera impeccabile, proprio davi i movimenti, davi l'input. Sì. È che solitamente le facciamo con lo strumento dal vivo. Mm. E quindi la facciamo anche un po' più veloce, più animata. Perché l'avete fatta a cappella, bellissima. Sì, sì, no, ma no, solo col pianoforte, però dal vivo. Mm-hmm. Mentre qui avevamo appunto la base, quindi eravamo un po' limitati. Sì, però praticamente a cappella, anche se aveva la base. Ha reso il 30%. Ha reso il 30%. Non sei soddisfatto. No, non sei soddisfatto. Hai dato uno stimolo veramente significativo. È una canzone fisica. Ti muovevi ritmicamente e davi ad ogni momento, ad ogni istante, le pennellate. Ma loro giuste. Si muovono in base al mio fisico, come mi muovo. Ah, allora loro benissimo. Era costretto questa sera. Ah, ti ha costretto. Era costretto. A proposito di movenze, chi è che ha curato queste coreografie dei maschietti che si abbassano continuamente? Tu, no, Martina. Io. Come mai hai voluto questa... movimentare un po' quello che è un coro, dai, con piccoli movimenti, perché devono essere pronti a cantare, intonati, sennò Adriano si arrabbia. Ma anche davanti al pubblico, cioè nel palcoscenico. Certo, sì, è quello il bello. Alla fine è un concerto, però è un po' un piccolo musical, diciamo. Sì, esattamente. Rimaniamo sempre sulla nostra lunghezza d'onda. Ma quanto dura questo spettacolo? Un'ora e mezza. Abbondante, circa, ci sarei detto abbondante. Abbondante. Sì, abbondante. Sì, perché poi è intervallato coi pezzi recitati, c'è questa piccola storia, quindi. Ma è la storia di Babbo Natale? Eh no, troppo semplice. No. Non ci vuoi svelare nulla? Non si può, dai. Si può. Diciamo che è ritrovare lo spirito natalizio perduto. Ecco. Non vi sembrerà vero, ma state ascoltando Blu Radio Veneto su 88 794 600 MHz, speciale Natale. Questa sera, come di consueto, ogni una volta all'anno lo facciamo anche noi, il nostro regalo che vogliamo fare ai nostri ascoltatori. Questa sera, come ripeto, c'è la compagnia Mouge che ci è venuta a trovare con un sacco di persone, ne mancano addirittura anche due che speriamo arrivino. Insomma, sono già in 14, pensate, in una stanza piccola avere 14 persone sono veramente tante, ed è un po' difficile, insomma, se sentite quindi qualche rumore in più è perché insomma è tutto in diretta, anche in diretta. Io ho sentito la carta che cadeva, i fogli che cadevano, è bello in diretta, sono cose che capitano assolutamente. E tu sei sempre in mezzo alla fossa di leoni. Io amo particolarmente essere proprio nella fossa di leoni stasera, bellissimo secondo me. Allora, chi è che mi parla un po' di quello che fate, insomma, cioè dal punto di vista musicale, chi è che cura Adriano. Come scegliete le vostre musiche, insomma? Beh, in questo caso abbiamo preso dei brani famosi e non famosi e abbiamo cercato di arrangiarli anche per le nostre capacità, quindi non facendo niente di straordinario, ma però facendole anche il prossimo brano è un brano anche questo fisico e quindi sarà abbastanza anche questo limitato nella sua esecuzione, perché ripeto, è una cosa che da vedere è bellissima, secondo me è da vedere. E Adriano e lo facciamo bellissimo in e secondo me brano, lo facciamo molto bene sé. Anche io sono sei sono grande, presuntuoso, sei però, grande maestro di cerimonie in questo pezzo, ma no, la musica è, posso dire una cosa? Sì, che certamente è una cosa, ieri ho partecipato a una con dei bambini delle scuole elementari, erano 120 bambini delle elementari e hanno ricordato i bambini che sono stati uccisi in America. E allora io dico una cosa, che è Natale, se ci fossero più strumenti musicali e meno armi, probabilmente le cose sarebbero molto molto diverse. Io la musica la vivo in questo modo, ecco. Hai detto una cosa giustissima, secondo me. E quindi quando si canta, quando si suona, viene fuori la parte migliore di noi stessi. Poi andiamo fuori magari a un semaforo, litighiamo con qualcuno. Certo. E questo è il problema, no? Quindi siccome qualcuno ha detto quella frase famosa che la bellezza salverà il mondo, io dico che l'arte, la musica in questo caso, per me salverà il mondo. Ecco, io la vivo così, in questo modo, insomma. E poi questo, scusate, mi sono dilungato un po'. Parlato di, questo è un pezzo corale al 100%, il pezzo proprio a cappella per antonomasia. Io lo ricordo in una versione di Sufi Stevens, che è un musicista che noi di Rockaway amiamo particolarmente. Anche te ami particolarmente Lo conosco. Bravissima. Ha fatto Little Miss Sunshine. Esatto, ha fatto praticamente un cofanetto con 6 dischi di Natale, lui, Sufi Stevens, qualche anno fa. E adesso ne ha riproposto un altro. In ogni caso, l'origine del pezzo è del XVI secolo, un pezzo inglese, quindi abbastanza, molto antico. Ci dai qualche altra informazione, Maurizio, tu che sei sempre molto documentato su queste sì, cose? Sì, è uno dei canti più famosi di Natale, ed era anche veniva festeggiato a Capodanno, veniva cantato anche a Capodanno, nonostante tutto. Siamo pronti adesso? Vedo proprio tutti in piedi, assolutamente. C'è una voglia di cantare questa sera, sì, che non vi dico, insomma. Sì, la tengo io, Adriano, la chitarra. È molto devo tenere la chitarra di Adriano, è una cosa molto, molto importante. Allora, la canzone si chiama... Vuoi presentare, Adriano, la canzone? Aspetta che deve dare la nota. C'è tanto da fare, guarda che è da fare. Sono caduti tutti i fogli, non importa, va bene lo stesso. Allora. Anche il libro. Anche il libro, tutto fa parte dello spettacolo. Allora, la canzone si intitola We Wish You a Merry Christmas. Ovviamente. E noi l'abbiamo ribattezzata Here We Come a Caroline, perché in realtà da come parte, da come la facciamo noi, non sembra che sono italiano. Non sembra We Wish You a Merry sì, Christmas. Quando siete pronti potete tranquillamente. Ok. Here we come a caroling among the leaves of green. Here we come a wandering so fair to be seen. Love and joy come to you, and to you glad Christmas too. And God bless you and send you a happy new year. And God send you a happy new year. We are no daily beggars that go from door to door, but we are friendly neighbors whom you have seen before. Love and joy come to you, and to you glad Christmas too, and God bless you and send you a happy new year. And God send you a happy new year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Here we come a-caroling among the lists of green. Here we come a-wandering so fair to be seen. Love and joy come to you, and to you glad Christmas too. And God bless you and send you a happy new year. And God send you a happy new year. We are no daily beggars that go from door to door, but we are friendly neighbors whom you have seen before. Love and joy come to you, and to you glad Christmas too, and God bless you and send you a happy new year. And God send you a happy new year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Perfetto. Perfino l'estensione del braccio per allungare la nota. Adriano comincia a spogliarsi. Allora, avete notato Adriano? Sì, bravissimo. Che importanza fisica ci mette nel dirigere il coro? È vero, sì, è vero. Infatti, peccato infatti. Che gli ascoltatori non lo possano vedere. Ma Gila ha ripreso tutto. Cioè. Gila ha ripreso tutto. Quindi, quindi finisce sul sito. Esatto, esatto. Ci contiamo. Allora, vedo che vi state spogliando un po' tutti, quindi insomma, fa caldo. In ogni caso, possiamo dire una cosa, Adriano. Musicalmente. Iniziava come un pezzo country, assolutamente country. Poi si è sviluppata nel solito pezzo che tutti conosciamo. Ma l'indirizzo, l'idea è proprio di introdurre un pezzo country nella classica canzone di Natale. Non è così, Adriano? Sì, ma l'innesto è bellissimo. L'innesto è bellissimo, secondo me. Proprio. Scusate, però stiamo solo mettendoci a posto. Assolutamente. È tutto dal vivo, tutto dal anche vivo. Lo spazio è proprio dal vivo. Non c'è spazio. Prego, Adriano. No. Sei un po' sudato. Sono un po' sfinito. Perché sei direttore del coro. Sei direttore del coro. Il coro deve sudare, c'è poco da fare. Beh, è uscita l'anima, adesso mi devo una. Esatto. Quindi l'idea di questo arrangiamento country l'hai avuto come, Adriano? Beh, non è. Ho presunto country, dai. Abbiamo messo le quattro voci assieme, come si fa un classico modo di arrangiare, niente di particolare, voglio dire. Non è tanto l'arrangiamento, è l'esecuzione che secondo me è importante. Sì. I finali. Come l'hai studiata? Io voglio sapere come l'hai studiata, Adriano. Come l'avete studiata? Con loro. Ma solo con loro. Basta, grande Adriano. In realtà vorremmo sapere anche noi come Adriano. Di notte. Beh, bellissimo, secondo me proprio. Comunque è molto difficile rimanere concentrati con Adriano che dirige così, io ve lo dico. Però prima hai detto, no? Dimmi. C'era un silenzio tombale, sì. No? Quando. Io apprezzo queste cose perché è nella semplicità assoluta che si respira le cose migliori, giusto? Certo, è vero. Ci dimentichiamo di queste cose, quindi bastano due note, una voce che canta, semplice, e si è rapiti giusto da questa cosa. Hai detto la cosa giusta, si è rapiti, dalla musica si è sempre rapiti quando ti piace, entri nel giro, c'è poco da fare secondo me, e non ti lascia più. Sono tanti anni che a me non ha più lasciato la musica, ma tantissimi anni. Qualcuno ha detto: è impossibile parlare tanto senza parlare troppo. E quindi bisogna imparare poche cose, ma giuste. Quindi non parliamo tanto, suoniamo un altro pezzo subito. Cosa avete deciso di fare adesso? In scaletta cosa c'è? All I want for Christmas. Ok. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. For Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. To hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas. Send it to the North Pole for Saint Nick. I won't even stay awake to hear this magic around the click. All need morning in tonight. I'll do not to me so tired. What more can I do? All I want for Christmas. Shine. so bright it everywhere. And the sound of children delighting in the air. And everyone is singing. Oh, yeah. I hear those sleigh bells ringing. Sound of all the hey, and all the ringing. I want to please bring my baby to me quickly. I don't want a lot for Christmas. This is all. In pratica tre delle artiste principali del musical Mamma Mia, cioè c'era Elisabetta Malone, c'era Erika Zanchetta e c'era Laura Tonnarelli alle voci. Sono queste tre soliste che hanno fatto questa canzone che si chiama All I Want For Christmas, giusto? Che purtroppo è di Mariah Carey, purtroppo, no, non è di Mariah Carey. Come purtroppo? Di Mariah Carey nel senso positivo del termine. E... posso dire che avete fatto in versione molto nera, anche questa secondo me. E a me piace più questa versione che non quella di Mariah Carey, è una questione di gusti. Io sono d'accordo con te che la nostra versione è bellissima, Maurizio, però rendiamoci conto che questa, appena uscita come canzone, tu lo sai meglio di me, sarà nel 92-93, sì, è diventato istantaneamente un classico. È un classico, è vero, soprattutto nel classico, nelle milioni di copie che lei ha venduto con questo disco di Natale. E nelle milioni di cover che ne hanno fatto. Esattamente, esattamente. Beh, non è un pezzo scritto nel 1800. No, no, assolutamente no, un pezzo assolutamente di questo, moderno possiamo dire così. Però bisogna darle atto che è riuscito a fare una canzone di Natale che è diventata appunto un classico, oltre a Jingle Bells e Happy Day, adesso se uno pensa a Natale, Natale pensa alla canzone di Mariah Carey. Anche a sì, esattamente, la canzone è anche Mariah Carey, musicalmente parlando. Allora, io, compagnia Musica, vi porto i saluti da un po' di mezza Italia, quindi insomma, nel senso che abbiamo la Liguria con Carla Spano che ci sta ascoltando e vi saluta. Ciao! Ciao! Ciao, ciao Carla, poi abbiamo la Toscana con Marisa Bibiani che vi saluta. Ciao Marisa! Ciao! La Sicilia con la Barbara Scardilli, insomma, che vi sta ascoltando. Ciao, buon Natale! Buon Natale anche a te. Poi ancora la Liguria con Antonella Gucci. Abbiamo la zona di Venezia con Giulio Maria, ma lui è uno che verrà qui tra 15 giorni più o meno, insomma i primi di gennaio sarà con noi qui a presentare il suo disco, Giulio Maria Carmelotto, che salutiamo caramente. Poi ancora una vostra cara amica, la Giorgia. La Lulu, brava. Che vi sta ascoltando, ovviamente. Allora, io vi voglio fare un po' di pausa a questo punto. E con una canzone che Maurizio conosce bene, è del 1977. Lui è un ex Beatles. Maurizio, hai già capito cosa? Sì, fammi sentire, adesso ti dico tutto. Facciamo sentire prima il pezzo. E poi le prime note? Sì, vai con le prime note. Sì, Sir Paul, ragazzi. Wall of Kintyre, old mist rolling in from the sea. My desire is always to be on Wall of Kintyre. Far have I traveled, and much have I seen dark distant mountains. with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea, my desire Maurizio. Sì, c'è sempre la renna, sì. Sempre la renna. Questo era Sir Paul McCartney. Sì, Sir Paul McCartney, un pezzo non prettamente natalizio. E poi è diventato un pezzo natalizio, un pezzo dei Wings di alcuni anni fa, che lui ha ripreso un buon successo. Poi è un po' sparito il pezzo, perché era in quel periodo, poi ha fatto tante cose diverse. A me piace rispolverarlo proprio in questo periodo, insomma, queste cornamuse, perché ci sono sotto, sono veramente splendide, ricordano un po' appunto di Natale, feste, assolutamente di Natale, Natale. Io ricordo un altro pezzo, non di Paul McCartney, ma dei Pooks, questa favola newyorkese, forse qualcuno conosce qua, è diventato anche quello un classico natalizio, fatta dalla voce di uno dei Pooks, è un gruppo assolutamente folk, un po' fuori della normativa, però hanno fatto questo pezzo natalizio e poi è diventato un classico, come tanti altri pezzi rock sono diventati come dei classici. Come si chiamava il pezzo? Fair Tale of New York, molto molto bello, molto interessante, e tante altre cose, altri classici natalizi, dalla musica rock, allora la musica pop sono diventati natalizi, anche Last Christmas purtroppo dei Wham, un pezzo che è stato sentito un sacco di volte, che ha stancato molta gente secondo me. Questo non ha stancato nessuno, a mio parere. Sentiamo le prime note di questa meraviglia. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in like 10 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. Dripping that bed. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I make God it's our love. The boys of the NYPD chorus go singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus go singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. Thank you. Allora, Maurizio. Eccoci qua, non potevo non mettere i Pogues, Sean McGowan, leader ma non potevamo neanche interromperla. No, non si può, ma che noi non togliamo mai nessun pezzo, mai. È una nostra caratteristica, non si taglia niente. Questa è una canzone bellissima. È una canzone di Natale, un classico, dal rock al folk, è diventato un classico natalizio. Insomma, hai avuto una buonissima idea, una buonissima memoria, insomma, che... Dimmi Adriano. Allora, c'è un brano che non eseguiamo questa sera, però... io vorrei ricordarlo perché nel 1942 Bing Crosby ha inciso White Christmas, che tutti conosciamo come Bianco Natale, giusto? Giusto, giustissimo. Poi è stato perso il pezzo, non mi ricordo bene, e nel 49 è stato rinciso. È vero. È diventato il disco più venduto nella storia, il 45. Contemporaneamente usciva proprio il 45, veniva inventato il 45 giri. Quindi... E Bianco Natale ha venduto 50 milioni di dischi, esatto, in tutto, esatto, il mondo. Ed è ancora in produzione nonostante, sì, tutto. Ricordiamo una cosa, che a ruota segue anche nel blu dipinto di blu. Sì, che non è natalizio. Dell'immenso Domenico Modugno. Però è giusto secondo me ricordare. Certo, anche, è giusto. Cioè. Allora, però io volevo così. Io ho preso. Va bene. No. Allora, io ho preso la melodia e siccome amo il jazz. Ci ho cucito un vestito addosso secondo i miei gusti. Volevo così farlo sentire, posso? Certo, certo. Come no? Bravo Adriano. Dai, cucito, versione jazz, dai, colorato, in questo colorato, senso. Colorato. Il termine migliore. Benissimo. Già che ci siamo, ma non avete mai pensato voi che fate queste canzoni così natalizie, di scrivere canzoni vostre proprio? Canzoni, magari con l'aiuto di Adriano, di Sergio, ovviamente, insomma. Avete mai pensato di fare delle canzoni proprie con qualche melodia natalizia? Con dei testi vostri, visto che siete così bravi a fare musical, no. No. È che io ho sempre pensato che è meglio essere un buon interprete che un cattivo autore. Sì. E questo è anche limitante, naturalmente, però. Chi è che sta facendo le percussioni? Non lo so, sono io, è perché devo entrare in argomento anch'io, devo partecipare, giustamente. Maurizio. Tra l'altro Adriano, una delle massime di Adriano, lui ha detto proprio durante la prima del nostro spettacolo, ha detto che lui vorrebbe morire inventando un accordo che non esiste. Perfetto. Beh, insomma, potrebbe essere un'idea. Perché no? No, però in realtà c'era venuto anche l'idea di inventarci una canzone di Natale, soprattutto per fare tanti skei, visto che se riesce a trovare quella giusta. Sì, come ha fatto Mike Bublé, che ha ripubblicato un disco che aveva fatto l'anno scorso aggiungendo un pezzo in più. Vedi, business è business, c'è poco da fare. Sì. Però, cioè, per fare una canzone. Bisogna farla bene. È brutta, sono quasi tutti. Sì. Poi in Italia non c'è la tradizione delle canzoni natalizie. Baglioni ha fatto un disco nuovo sulle canzoni di Natale. Non do nessun giudizio sulle canzoni di Natale cantate da Baglioni. No, diciamo che ci provano tutti a fare le canzoni natalizie. Sì, certo. Giusto per vendere qualcosa in questo periodo natalizio. Chi è che batte continuamente? No, non sto battendo, sto mettendo a posto. Ecco, io sento battere, sembra una percussione. Dicevo, c'è la mentalità di fare questi dischi appunto per guadagnarci qualcosa, insomma, ovviamente, perché poi con lo spirito natalizio tutti ti viene voglia di acquistare. Anche Baglioni stesso ha fatto questo disco, per carità, lui è bravissimo, però insomma. No, lui si è impegnato, ha tentato. C'è stata Irene Grandi qualche anno fa. Sì, certo. L'anno scorso. Insomma, sono più bravi gli stranieri, sono più bravi. Caso, secondo hanno me. Hanno un'altra mentalità. Cioè, il Natale è diverso musicalmente negli Stati Uniti, in Inghilterra. C'è proprio la tradizione del disco natalizio. Lo facevano anche i Beatles all'epoca, quindi. Certo. E sono di realità assoluti i dischi natalizi dei Beatles. Fatti solo per i fan, tra parentesi. Quindi. Grazie per questa. No, solo un flash, l'ho detto. Andiamo un pezzo meraviglioso. Cosa ci adesso è Fidelis. Vorrei solo ricordare una cosa: ci sono due versioni, fra le tantissime. Io ricordo la versione di Giuni Russo, veramente splendida, voce meravigliosa, e anche la versione un po' meno splendida, un po' gracchiata, di Bob Dylan di qualche tempo fa. Adesso sentiamo la vostra versione. Venite ad ora. Bravissimo, Andriano dirigeva in modo impeccabile, assolutamente impeccabile. Questo è un coro che ha un grande fascino. È un pezzo grande fascino. Se posso dire una cosa, devi vedere Adriano le facce che fa quando dirige, sì, in realtà. È vero. Infatti, perché è difficilissimo rimanere seri durante la sua conduzione. Tu hai Adriano che ti fa di quelle facce incredibili. Tu, serio, devo pensare alla nota, devo pensare alle parole. Io posso dire una cosa, avevo paura per Elena perché ha rischiato di prendere qualche. Veramente ti passava vicino, ero lì che adesso la prende. Ce l'avevo dietro. Ricordiamo una cosa, questo è un testo, un pezzo originariamente irlandese che poi è diventato famoso perché è stato eseguito spesso in Francia. Il motivo è che è stato eseguito in una cittadina francese dove erano tutti i rifugiati cattolici irlandesi. C'era il protestantesimo, quindi in Inghilterra c'era il protestantesimo, e sono fuggiti dall'Inghilterra e sono andati in Francia e hanno eseguito questo coro del 1743. la datazione di questo pezzo meraviglioso. È solo una trascrizione, perché non si sa l'origine vera e propria. La trascrizione è del 1743. Quindi sono pezzi che si tramandano negli anni, sempre restando così belli. Sì, esattamente, sono meravigliosi, hanno seguito in tantissima gente, anche Rocchettari, abbiamo citato Bob Dylan. È un disco, cioè un motivo che ha un certo fascino, grande fascino secondo me. Il Natale è proprio ideale per questo pezzo, assolutamente. E d'altronde a destra, appunto, per quello. Adesso invece cosa ci fate sentire? Sempre qualcosa di corale? Facciamo riposare un momento Adriano, che un secondo. Che poi ha dato tutto, perché è il direttore d'orchestra, il direttore del coro, dà tutto, assolutamente, vero? Anche l'età, beh, sei giovane, dai, rispetto a me, indubbiamente. Dunque, in scaletta, avete un pezzo nuovo che avete aggiunto adesso, mi pare. Adesso, chi me lo vuole spiegare questo pezzo nuovo? Qualcuno dei maschietti che non ha mai parlato. Maschietti, sì. Il nostro lenoniano vocalist, vieni. State parlando di me? Esattamente. Tu chiami particolarmente il blues. Non è blues questo pezzo, però me lo spiego. Si può trovare in ogni cosa. Esatto. Il blues si può trovare in ogni cosa. Ed è una fede, cosa giustissima. È una fede anche. È vero. Comunque. Beh, Feliz Navidad, diciamo, è un pezzo abbastanza così frizzante, insomma, che noi cerchiamo sempre di mettere anche per dare un po', cambiare anche un po' di passo in determinati momenti. Ecco, hai detto una cosa, giusto? Cambiare un po' di passo, cosa vuol dire? Dare un po' di stimoli? Sì, ma certo, ovviamente una performance, diciamo, in pubblico ha bisogno, insomma, di una sua storia, di una sua dinamica. Allora noi cerchiamo a volte anche di mettere dei pezzi in determinati momenti, o comunque di strutturarci le scalette con dei pezzi anche adatti. Una cosa volevo chiederti, come le scalette le fate? Oltre a Adriano e Sergio, che sono i vostri musicisti, come le create le scalette? L'idea della scaletta, dove parte? Beh, diciamo la scelta della scaletta ovviamente è sempre affidata principalmente ai musicisti, però diciamo che ci sono molte occasioni in cui, diciamo, ci confrontiamo anche su come inserire, diciamo, i pezzi in scaletta. E da lì non è che facciamo delle grandi discussioni, però ogni tanto, insomma, quando c'è da aggiungere un pezzo nuovo, oppure così magari anche la serata o il posto, ma dipende a volte anche dalla trama, no? Sì, certo, poi dipende anche da come è strutturato così lo spettacolo, allora anche la scaletta, insomma, ha la sua importanza. Cioè, poi è sempre vero che come parti e come finisci è la cosa fondamentale, però insomma anche durante sì, questo è vero. Anche durante è poco. Per cui da lì, insomma, è sempre in evoluzione, se vogliamo. Come stasera, insomma. Work in progress, come diceva qualcuno un po' di tempo fa, vero Antonella? Confermi, no? Confermo, anche benissimo. Perché a noi piace cambiare. Certo. Anzi, non a noi, a Cesare e Martina piace cambiare, e noi ci adattiamo. Esattamente. Sono loro due che vi dirigono. Sì, sì, Cesare e Martina sono la mente creativa. Infatti quando li guardi dici, non immagineresti mai che potessero avere tanta fantasia e tanta capacità. Nel vero senso della parola. Cioè, che mi fa il gesto di una sviolinata. No. Sono sincera. Ma anche perché, per chi è venuto a vedere lo spettacolo Mamma Mia, sì, voi dovete sapere che la scenografia è stata fatta dalle manine di Cesare. Cioè, quindi anche lì veramente hanno forza creativa a immaginare, ma anche a realizzare praticamente. Per poi non parlare la Marti come ci salva sempre con la famosa colla a caldo, i costumi vengono salvati all'ultimo minuto. Anche a Gottino, dai. C'è sempre da noi dietro le quinte, macchina da cucire non manca mai. Per non dimenticare il velcro. Sì, il velcro ci salva. Ha un rapporto privilegiato col Brico Center, comunque. Questo bisogna dirlo per onore del vero, ecco, diciamo. Ti aprono le porte. Insomma. Poi a seconda che del centro commerciale che abbiamo vicino, al posto dove sogniamo, insomma, dipende un pochino. La scelta. Il rapporto privilegiato può variare, anche sì, certamente. Va bene, allora ci ascoltiamo. Siamo questa pronti? Feliz Navidad. O volevate aggiungere qualcos'altro? Sì, lui ha detto una cosa meravigliosa, che il blues lo trovi dappertutto. Fatalità, questo brano è costruito con i tre accordi del blues e quindi il 90% della musica è costruito con gli accordi maggiori del blues. Benissimo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. cosa ho notato. No, no, Cesare, vieni qua, fammi vedere lo strumento. Lo strumento, questo strumento, mi ricordo un po' di tempo fa, lo suonavano i Mango Jerry in the Summertime. Te li ricordi, Cesare? Vedi, vedi. Fai, dai, vai, vai, vai. Vai, facciamo un secondo, dai, vai. Vai, vai. Assolutamente diretta. Abbiamo ricordato i Mango Jerry. Natale alle Maldive. Esatto. In the summertime. Esattamente. Va bene, adesso li facciamo riposare ancora una volta. Mi prendo io uno spazio perché questo è un, come dire, un mio, posso dirlo, un mio idolo. Di qualche anno fa, Gil, lo sai che tu, noi facevamo moltissimi notturni. C'era questo personaggio americano, viene da Filadelfia, si chiama Teddy Pendergrass. Lui 2 anni fa circa è scomparso il 13 gennaio 2010, aveva circa 60 anni. Pensate che fece il primo disco nel 1977 per la Philadelphia International Records. Lui ha fatto 35 anni di carriera, è una carriera splendida, di tante bellissime canzoni, e ha pensato bene nel 1998 di fare questo disco dedicato appunto a Natale, si chiama This Christmas. Ricordo che lui ha fatto 35 anni, dicevo, di carriera, ma ne ha fatti 24 in sedia a rotelle. Io ci sono molto legato a lui perché mi ha regalato veramente tantissime emozioni. Io mi ricordo ancora quel giorno quando sua cugina mi scrisse su Facebook in privato dicendo appunto che era morto. Ricordo, non mi vergogno a dirlo, che durante anche le ore lavorative mi misi a piangere, perché talmente era grande la mia passione per questo artista che mi ha veramente sconvolto un po' quella giornata. La canzone che ho scelto da questo, posso dire, greatest hits natalizio, c'è Joy to the World, c'è Little Dumb Boy, c'è Happy Christmas, c'è Holy Night e tante altre. Ho scelto una canzone forse non molto conosciuta, ma lui la interpreta nella maniera splendida. Si chiama The Christmas Song, la canzone di Natale, Teddy Pendergrass. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows that a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Oh yes, it will. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I offer you this simple phrase. From 1 to 92, and although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Come on and play. Thank you. And so I offer you, this simple phrase to kids from 1 to 19. And although it's been said times, many ways, Merry Christmas. I want to wish you a Merry, Merry Christmas. Merry, Merry, Merry, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Teddy. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, Blu Radio Veneto nelle frequenze che state ascoltando, cioè 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo anche il nostro sito, se volete darci un'occhiata troverete un po' di informazioni inerenti a quello che succede nella nostra cara amata regione, cioè il Veneto, ma anche troverete le recensioni, troverete qualsiasi altra cosa che possa interessarvi per quanto riguarda la musica, ovviamente. Vi ricordo quindi il sito www.bluradioveneto.it e lì ci potete anche ascoltare in streaming 24 ore su 24. Basta semplicemente cliccare su ascolta la diretta e ascolta la radio, meglio dire, e lì ci potete sentire sempre, comunque, in ogni ora, in ogni giorno, insomma, 24 ore su 24. Poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che ricordiamo è il nostro direttore artistico, che sentite sempre il martedì sera. Allora Maurizio, questo era Teddy Pendergrass da This Christmas I'd Rather Have Love, una canzone che ci siamo ascoltati, si chiamava The Christmas Song. So che a te non piace molto questa musica, vero? No, cioè, non sono proprio nelle mie corde questo genere musicale, però lo apprezzo, lui è un grande artista, era un grande artista, quindi assolutamente da apprezzare. Bene, torniamo a noi, torniamo alla nostra scaletta. Al Buon Natale, insomma, Buon Natale, che vi sta regalando Blu Radio Veneto. Dunque, abbiamo scelto, sotto mia pressione anche questa, sette cose bisogna dirle, The Little Drummer Boy. Perché amo particolarmente questo pezzo? Perché l'ho sentito da Bob Seger. L'ho sentito da Swivel Stevens, con dov'è Antonella, l'ha fatto una versione, l'ho sentito da tanti altri artisti, soprattutto artisti rock. È un pezzo molto importante, molto conosciuto, molto amato. L'origine, dunque, l'ha scritto nel 1941, quindi non è vecchissimo, un certo Kenneth Davis, praticamente. E il titolo originale era Carol of the Drum, Carol della batteria, delle percussioni. La versione, ne abbiamo sentito tante versioni, molto a cappella, oppure abbastanza ritmica, abbastanza funky anche. Vediamo che versione ne date voi, perché non è mica facile secondo me questo pezzo, è molto complesso, vero Cesare? E infatti io sono un po' preoccupato, anche perché è stata la prima canzone che mi hai detto. Sì, ti ho spinto, perché dobbiamo dire questo, cari ascoltatori. Cesare, io avevo proposto una serie di 50 pezzi da eseguire, poi chiaramente per motivi di tempo li abbiamo ristretti, ma mi sono impuntato, se mi è consentito il termine, su questo pezzo, perché lo trovo molto interessante e molto difficile, ma difficile nel senso positivo del termine. Quindi Adriano, che è molto bravo, che dà un certo seguito, che dà praticamente controlla e unisce tutti gli elementi, sicuramente ha accettato questa mia proposta, ha accettato Adriano, quindi tutti voi. Certo. E quindi abbiamo fatto questo, abbiamo deciso di farvi sentire, cari ascoltatori, questa meraviglia natalizia. Siete pronti? Sì. Ok. Gandhi told me, pa rum pam pam pam, a newborn king to see, pa rum pam pam pam, How fun is gift we bring, pa-rum-pum-pum-pum. Too late before the king, pa-rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pum-pum-pum. Where we come, little baby, pa-rum-pum-pum-pum. I am a poor boy too, pa-rum-pum-pum-pum. Fit to give the king, pa rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum pum. Shall I pray for you, pa rum pum pum pum? Oh my drum, oh my drum. Day ox so lamb kim time, pa rum pum pum pum. I play my drum for him, pa rum pum pum pum. I play my best for him, pa rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum pum. Then he smile at me, pa rum pum pum pum, me my drum. When we come, me my drum. Where we come. Sei bravissimo, Cesare. Io non ti ho mai sentito cantare, sinceramente, come solista. Mi hai stupito? Mi faccio desiderare. Sì. Bravissimo, mi è piaciuta molto la tua interpretazione. Com'è che faceva? Dobbiamo sottolineare che Cesare era molto difficile, pezzo molto difficile, Cesare, assolutamente difficile. Da solista non è mica semplice. Certo. Poi aveva una voce molto da basso, assolutamente. Strano, da basso. Perché di solito invece è una voce molto acuta. Bene, una versione ottima secondo me di un pezzo molto complesso, molto famoso, suonato, come abbiamo detto, da tantissima gente, anche non benissimo secondo me, sono un po' andati oltre, e questa è stata una versione contenuta nel senso positivo del termine. Ecco, l'arrangiamento, adesso parlo con Adriano che è qui vicino, no, non ti ricordi, no, è stato abbastanza complicato, sì, decisamente, poi è venuto fuori il pezzo, indubbiamente. Bene. Vediamo la scaletta cosa dice. Beh, possiamo fare cosa dici Agostino? Facciamo un altro pezzo musicale, dai. Ci riposiamo sì, un secondo. Anche un altro pezzo da sì, da, sì, da disco e poi ci sarà una bella cavalcata più avanti, molto interessante. Però mi devi lasciare il tempo di preparare qualcosa. Tanto se vuoi dire qualcosa tu. Sì, possiamo dire anche ci abbiamo parlato dell'origine del pezzo, ma c'è questo il testo, il Davis era una ragazza, si chiama Catherine. Si chiama Caterina, è morta nel 1980, non quanto tanto tempo fa, e il successo è stato lento ma progressivo, quindi è una cosa molto positiva, molto interessante. Bene, io sono già pronto comunque. Bene, che pezzo hai scelto? Ti ricordi, ti dice niente Johnny Mathis? E non è anche questo nelle mie corde praticamente, neppure questo, però lo accetto. Però la canzone oggi è Natale, possiamo accettare anche Johnny Mathis. E quando un bambino è nato, When a Child's Born. Benissimo. Sails the seven seas, the winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. A rosy hue settles all around. You've got the feel, you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child. And all of this happens because the world is waiting, waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream and illusion now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child. E Maurizio, questo ti ricorda qualcosa, scommetto? Sì, mi ricorda Soleado di Danne Santa Cruz Ensemble. C'è poco da fare. Ma non c'entra. Non c'entra, però la melodia è quella. Sì, poco da la fare. Melodia sì. Però, insomma, però rispetto. L'ho presa al volo perché mi piaceva. Rispetto il solista che ha cantato, l'artista che ha cantato stasera. Vuoi che facciamo un altro pezzo dal disco? Beh, sì, facciamo un altro pezzo del disco, perché stiamo preparando una cosa molto interessante più tardi. Più tardi. Tra qualche minuto. Che pezzo del disco hai scelto? Ho scelto una canzone che piace molto anche a Cesare, mi ha confessato. Sì. Si chiama Winter Wonderland. Ah, molto bella, è un classico, anche quello è un classico natalizio. L'ha cantata anche recentemente, 2 anni fa, in una versione meravigliosa, un po' crepuscolare, Tori Amos. Ah, ecco, questo non lo sapevo, non me lo ricordavo. Ha fatto un disco natalizio, sì, sui generis, 2 anni fa, Tori Amos, e ha dato una versione molto bella, ha dato una versione anche Annie Lennox, con quel disco natalizio meraviglioso dell'anno scorso. Quindi, sentiamola. Io la propongo nella versione di Michael Bublé. È il Crooner, il famoso Crooner. Adesso Bublé praticamente si è installato il nuovo Frank Sinatra, esattamente. L'ascoltiamo? L'ascoltiamo. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. To sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Snowman, we'll pretend that he is Parson Brown. We'll say I already, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Bene, era Michael Bublé con Winter Wonderland, una canzone che è stata fatta, come diceva Maurizio prima, in tantissime versioni. Lui anche da James Taylor, da un album Christmas, che è ritornato in classifica anche quello in America, ma è stato ristampato con qualche pezzo in più. È il discorso business natalizio, tutte le case discografiche lo fanno, chiaramente. Sarebbe questa, insomma. Vedi, l'hai pescata subito, perfetto. Bene. Torniamo in studio. Un secondo di Michael Bublé, perché si è acceso un dibattito sull'importanza di questo bravo musicista. Crooner, ma Frank Sinatra era Frank Sinatra. Mike Bublé sta cercando, non dico di avvicinarsi, sta cercando di fare la sua carriera, chiaramente. Cosa dici, Erika, qua particolarmente Mike Bublé? Mi chiedevi se lo amavo più fisicamente o come artista. Io direi che entrambe le cose. Sono molto valide. Entrambe le cose. No, è bravo, non c'è niente da dire. È un professionista, come parlavamo prima con Antonella, che gli americani sono professionisti su queste cose. Sono persone che riescono. Che poi è un italo-americano. Sì, un italo-americano. Riescono molto. Hanno una cultura diversa dalla nostra musicalmente. Anche Adriano parlava. Una cultura musicale nostra è diversa da quella americana. Vero, Adriano? Assolutamente. Vieni davanti al microfono. Noi abbiamo una cultura più classica. Esattamente. Cioè, però il blues è solo americano. Il blues è americano. Cioè, le tre note ci sono dappertutto, se vero? Se tu senti un chitarrista italiano che fa blues e senti due note di B.B. King, è diverso, perché sì. Eppure c'è qualcosa di inspiegabile, secondo me. Però io ti dico una cosa, è venuto qua a suonare Rudy Rotta, era presente anche Agostino, è molto molto bravo Rudy Rotta. Sì, per carità. Non è americano, siamo d'accordo. Allora ti ripeto, non è quando senti certi bluesmen, che forse adesso non ci sono neanche più, quattro notte, ti trasmettono quella, quel pathos che non si riesce a sentire da altri musicisti di altri paesi. Sono d'accordo, sono d'accordo. C'è qualcosa proprio nel DNA che viene fuori con la musica. Certo, certo. Forse noi siamo più per la musica melodica, no? Le classiche canzoni di una volta. Sì, con noi siamo in una bruttissima fase, secondo me. Adesso sì, sì, no, ma di tradizione. Proprio musicalmente stiamo proprio andando a deriva. Perché trionfano certi cantanti mediocri, secondo il mio punto di vista? Perché la mediocrità che abbiamo musicalmente rappresenta che la mediocrità sociale, scusate, non dico più niente. Bene. Bene. Dimmi. Dove li fa? Sì, esatto. Ma dico, è anche difficile però accorgersi di quello che in realtà c'è in giro, anche di bluesman, anche molto bravo. Tu che sei molto ferrato nel blues, ami particolarmente diciamo il blues. Che mi piace, l'ho seguito, insomma, ci sono dei musicisti blues. Ci sono di buoni musicisti blues italiani, sì, però. Che però, beh, io ne conosco uno in particolare che è veramente blues in tutto, e anche americanamente parlando, è un grande Claudio Bertolin, sì. Insomma. Però, sai, lui così, lui fa la sua musica, va in giro, però anche questi elementi così sono, non sono molto, cioè non ti accorgi di in determinati contesti, non riesci neanche forse a accorgerti di determinate persone che ti trasmettono quello che dici tu, no? Alcuni magari non te lo trasmettono, magari sono italiani, non contesto, però dipende. Ecco. Alcuni proprio te lo trasmettono ed è. Voglio, però è anche difficile trovare. Sì, non voglio generalizzare. Ma lui, perché vuole l'esempio, lui è proprio blues in tutto. Classico giro. Classico giro, così lo metto sotto fondo. Senti. È lui. Ok, ci voleva un momento di blues, ci voleva. Blues fa sempre bene alla salute. Adesso ritorniamo all'argomento, ritorniamo al pezzo. Questo è un pezzo un po' particolare, tratto da un film, mi pare, vero? Sì, questa canzone è tratta dal film Polar Express, che racconta la storia di un bambino che non sa più se credere a Babbo Natale. La vigilia di Natale sta aspettando con ansia la mezzanotte quando vede un treno, che è questo Polar Express, fuori dalla sua stanza, e decide di prendere questo treno. Ed è la storia di tutti questi bambini che vanno al Polo Nord per scoprire Babbo Natale. Io che l'ho visto posso garantirvi che è un gran bel, anche sono d'accordo, film più bellino, di cartoni, sì, animati, insomma. Poi la storia è molto bella, veramente molto bella, ed è cantata dai due bimbi, dai due bambini, la canzone. Tu non l'hai visto, Maurizio? No, assolutamente no, non l'ho visto. No, non l'ho visto, basta. termino qua assolutamente. Non ho nessun giudizio, mi pare giusto, non l'ho visto. Quindi. Perché, cari ascoltatori, voi non lo sapete, perché questa è una stilettata di Agostino apposta, lui cercava di vedere se io rispondevo in una certa maniera. No. Siamo a Natale. Siamo a Natale, siamo buoni. Buon Natale, ascoltatori. Ok. Allora, siete pronti voi? Quando mi fate segno che siete pronti, andiamo. Ok. That even, 'cause he's never come around, I think of him when Christmas comes to town. The best time of the year, when everyone comes home with all this Christmas cheer, it's hard to be alone. Putting up the Christmas tree with friends who come around, it's so much fun when Christmas comes to town. Presents for the children wrapped in red and green, all the things I've heard about never really seen. No one will be sleeping on the night of Christmas Eve, hoping Santa's on his way. When Santa's labels ring, I'll listen all around. The herald angels sing, I never hear a sound. And all the dreams of children once lost will all be found. That's all I want when Christmas comes to town. Presents for the children wrapped in red and green. All the things I've heard about but never really seen. Bello, bello, molto bello, molto americano, assolutamente americano, bello, interessante, però le atmosfere sono decisamente made in USA, cosa dici Erika? Sì, sì, è bellissimo, noi siamo abituati a farlo con il nostro maestro Sergio, questa base l'ha registrata lui, ma solitamente lui ci segue come... Mi segue perfettamente. Perfettamente, gli esatto. Gli dà l'input giusto. Infatti, senza di lui siamo un po'. Ma Adriano stava. Cercava anche Adriano lui di. Cercava di dire. Sergio, esattamente. Esatto. Cercava di fare qualcosa, ma si è limitato. È stato fermo. Sì, praticamente. Sì, sì, ci manca effettivamente Sergio. Quindi abbiamo sentito questo pezzo tratto da un film. L'avete fatto bene, secondo me. Ripeto, cari ascoltatori, è tutto dal vivo, a cappella, cioè con la base, leggermente, ma praticamente a cappella. E non è semplice, è complicato gestire tutto le vocalità. Non è semplice. Ecco, come l'avete preparato? Come l'ho preparato un pezzo simile prima? Come lo studiamo? Come lo studiate, sì. Beh, generalmente ci dividiamo le canzoni... ci proponiamo per una canzone in base a quello che ci piace di più, eccetera, e dopodiché tocca a noi studiare a casa e con i maestri. E maestro, quando voi proponete un pezzo, Adriano e Sergio sentono la vostra proposta e come agiscono loro, come lo strutturano il pezzo praticamente? Beh, quando le canzoni sono preparate dal... o suonate dal vivo, ovviamente loro, diciamo, ce le cuciono addosso in base alla nostra voce, in base al nostro stile, ecco. Quindi... come è successo in questo pezzo praticamente. Esatto, infatti dicevo appunto che Sergio è perfetto in questo senso. L'ha costruito, cioè ha sentito la tua voce, ha sentito le voci del coro, l'ha costruito in quella maniera, perché doveva essere così, doveva essere incastrato in questa maniera. Sì. Ed ogni volta è diverso in realtà, perché anche gli attacchi appunto sono gestiti in base a quello che ci sentiamo noi al momento, perché lui ci segue perfettamente, è incredibile, è incredibile appunto da questo punto di vista. Perfetto. Bene, e allora qui la storia continua, tra virgolette, nel senso che siete sempre comunque sintonizzati su Blu Radio Veneto. Questa è la serata dedicata a Natale con la compagnia Mouge, che ci è venuta a ritrovare dopo un po' di giorni, insomma, dopo il musical, è venuta a presentarci tutte queste canzoni dal vivo, assolutamente dal vivo, a parte qualche interruzione giusto per farli riposare. Adesso c'è un grande momento di un grande artista che io amo tanto, vero Maurizio? Lo so, ti lascio assolutamente la parola e il microfono, perché è giusto che sia così. Insomma, è una delle canzoni forse più famose di Michael Jackson. Io prima la voglio sentire, poi magari sì, ne parliamo qualcosa. Allora, la canzone si chiama? Chi è che ce la presenta? Will You Be There? Ok. Will an owl and say to you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Io me la tengo di sottofondo, cantato dal maschietto, e non si sa mai, perché mi emoziona tantissimo. Will You Be There, una canzone bellissima. Michael c'ha... Poi mi piace da matti quel video che gira su YouTube con... esatto, bravissimo. Lo che... facciamo anche noi. Vedo che Elena mi ha capito, insomma, si balla. Poi c'è questo angelo che cade dal cielo e lo abbraccia fortemente alla fine, quando lui dice che, insomma, c'è da aiutare il mondo, insomma. È anche stata la colonna sonora del film Free Willy, Un amico da salvare. L'orca assassino. Esatto. No, Free Willy è un amico da soldato. No, ma era dell'orca, dell'orca assassino. Okay, okay. La chiamano l'orca assassino. Sì, esattamente. E poi dal punto di vista discografico ha venduto moltissimo. Dunque, secondo le statistiche, più di 500.000 copie del singolo rimangono nel top 10 per 6 settimane negli Stati Uniti. È un grande e ci ha lasciato così, con queste meraviglie qua, insomma. Perché avete scelto Michael Jackson, caro coro di Musa, per farlo? Perché avete scelto, la compagnia Musa ha scelto Michael Jackson, natalizio? Cesare, qual motivo? Allora, diciamo, questa in realtà non è proprio una canzone natalizia. No, assolutamente no. In realtà l'abbiamo scelta per il ci serviva una canzone al nostro spettacolo, ci serviva una canzone finale che da poter avere un certo pathos. Sì. Tra l'altro noi questa facciamo nello spettacolo, la interpretiamo tutta con una coreografia, una specie di linguaggio dei segni per i sordomuti, tipo, che certo. È poi quella che fanno anche nel video, forse che diceva, certo, che diceva Agostino. Certo. E era bella in realtà anche il testo può essere identificato anche con un messaggio di pace natalizio, e perciò l'abbiamo scelta soprattutto per questo motivo. Ma c'è stata delle difficoltà a proporre un pezzo di come autore di Jackson, secondo me? La difficoltà era che sicuramente doveva farlo una donna, cioè un uomo non sarebbe riuscito a farlo sicuramente. Noi siamo fortunati che abbiamo tantissime ragazze che sono bravissime a cantare, perciò diciamo che la difficoltà c'è stata, ma parzialmente, diciamo, superata brillantemente. Esatto. Altra canzone. C'è Tannenbaum. Tannenbaum, che è un altro classico. Facciamo così, adesso, tutto in diretta. Adesso la sentiamo fatta da voi e poi ne parliamo, cerchiamo di estrapolare qualcosina sull'origine del pezzo. Siete pronti? Io vi vedo molto, assolutamente pronti, decisamente. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du kommst nicht nur zur Sommerzeit, nein, ach, im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are never changing. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are never changing. They're all are green where summer's here, they're all are green in winter's drear. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are never changing. Oh albero, bel albero, risplendi nella notte. Oh albero, bel albero, risplendi nella notte. Le luci tue scintillano, come le stelle brillano. Oh albero, albero, risplendi nella notte. Si innalzano, risuonano i canti di Natale, ripetono agli uomini giustizia, pace, amore. La loro dolce musica giunge fra tutti i popoli. For every year the Christmas tree brings to all both joy and glee. è notte. Un'ombra sorvola furtiva la vecchia fattoria. Qui le cose non vanno molto bene, mormora tra sé e sé. Inventerò un giorno per metterle a posto. E sarà un gran bel giorno per tutti. Lo chiamerò Natale. Se pensi che è difficile un anno da formica, sapessi a far la volpe, rubare è una fatica. E noi farfalle allora dicono che siamo leggere, un fiore dopo l'altro è proprio un bel mestiere. E a un topo mai che capiti una giornata al mare. E a chi interessa un orso che piange per amore, o una cicala povera col vizio di giocare, o un grillo senza musica e case discografiche? Ma noi balliamo e poi balliamo e poi balliamo ancora. La stella che ci illumina in fondo è quasi nuova, e l'anno nuovo è nuovo per una volta sola. Chiocciole da tempo ormai si affittano la casa. Se le galline mancano, i lupi vanno in chiesa. I coniglietti aumentano tanto da far spavento. E i mille piedi scappano. Insomma, qui è un tormento. Ma alla formica toccherà il seme nella neve. Al topo niente trappole. Alla farfalla il fiore. Al grillo la sua musica. Alla cicala i dollari. Ai coniglietti pillole. E all'orso un grande amore. E noi cantiamo e poi balliamo ancora. La stella è tanto bella che sembra quasi finta. E l'anno nuovo è nuovo, la notte adesso canta. E noi cantiamo e poi balliamo e poi balliamo ancora. La stella che ci illumina in fondo è quasi nuova, e l'anno nuovo è nuovo per una volta ancora. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ecco, svegliamo una cosa. Per chi gli amanti delle statistiche, delle ricerche, questo è un disco molto raro, che è stato ristampato in CD da poco tempo, dopo poco tempo, da qualche anno. Da qualche anno. Però io ce l'avevo in vinile. E io ce l'ho in CD. E tu hai CD. Adesso citiamo che disco è. Purtroppo ci sono anche i Pooh dentro. Ecco. Grazie. Per prego. Allora, si chiama Natale con i tuoi, ci sono canzoni di Ivan Cattaneo, Giuni Russo, come dicevi prima, di Adesto Fidelis. Sì, Adesto Fidelis, meravigliosa secondo me. Caterina Caselli, Dario Baldambembo, Adriano Celentano, Edel Parisi, Riccardo Fogli, Ornella Vanoni, Pierangelo Bertoli, c'è anche Josie Nowak. E il disco viene aperto dai Pooh con Happy Christmas. Sì, la versione dei Pooh, di cui metto due o tre virgolette del pezzo classico di John Lennon. Dobbiamo ricordare una cosa: è l'unica compilation italiana di Natale stampata. Ce ne sono state altre, però di gruppi indipendenti, ma è l'unica ufficiale compilation di Natale stampata. Ce n'era ancora una molti anni fa, fatta negli anni 60 dall'Equipe 84 con altri musicisti. Era in vinile e noi in radio qui l'abbiamo. Io questo non lo sapevo, vedi? Nel 67 erano due dischi della edizione Paoline, due, Natale 1, Natale 2, in vinile, meravigliosi, che noi chiaramente possediamo. Siamo molto orgogliosi di questo. Mi fa piacere saperlo. Ritorniamo al discorso del Tannenbaum, l'origine. Questo è un pezzo, un canto assolutamente tedesco. E già il nostro vocalist, e l'avete eseguito anche, avete citato anche la lingua tedesca, siete stati molto bravi. Pezzo molto difficile in tedesco, quindi Sì, puoi tra l'altro c'è un aneddoto su questa canzone, dimmi, che in realtà è stata assegnata a me perché ho fatto i due primi livelli del corso di tedesco diversi anni fa, per quello. Quindi una canzone popolare, l'origine si parla tra il 1777 e del 1800, quindi è molto antica, è stata riproposta un sacco di volte, è la canzone simbolo dei paesi di lingua tedesca per il Natale, non so se siete d'accordo. Sì. Assolutamente. Ed è, adesso l'abbiamo sentita nella versione di Vecchioni, che è una lettera a Babbo Natale un po' diversa, un po' particolare. Vecchioni è sempre stato un musicista che è andato, che ha cercato sempre di fare delle cose non prettamente normali, giustamente. Siete pronti per fare un'altra canzone o volete che... Facciamo riposare un secondo. Scegliamo un altro pezzo natalizio. Sì, io ho questa raccolta doppia, si chiama Number One, The Christmas Album, sì. Dove ci sono di tutto, di più. Cosa hai scelto Agostino? Vediamo cosa hai scelto. Stavolta... Perché noi siamo pronti, non sparate sul pianista, dicevamo una volta, sparate sul regista. Non li ho scelti, ma vuoi Wham con Last Christmas? No. Quello no, assolutamente no, c'è un motivo, e lo ribadisco, l'abbiamo sentito milioni di volte. Esatto, infatti. A stancare. Siete d'accordo? Sì. George Michael è stancato? No, ha stancato, ma non è brutta la canzone, Last Christmas basta, assolutamente basta. Ti lascio la scelta tra Chris de Burgh. No, quello no. Ecco bene, o Mike Oldfield. Ecco, Mike Oldfield sì, anche se è solo strumentale, come d'abitudine di Mike Oldfield. Allora metto Chris de Burgh. Fai come vuoi. Ascoltiamo Chris de Burgh, una canzone bellissima, Spaceman Come Traveling, appunto dal disco 2, la traccia numero 2. Spaceman came traveling on his ship from afar. 'Twas light years of time since his mission did start. And over a village he halted his craft, and it hung in the sky like a star. Just like a star. He followed a light and came down to a shed where a mother and child were lying there on a bed. A bright light of silver shone round his head, and he had the face of an angel, and they were afraid. Then the stranger spoke. He said, "Do not fear. I come from a planet a long way from here, and I bring a message for mankind to hear." And suddenly the sweetest music filled the air. Trembling through the ground, and many were wakened on hearing that sound. And travelers on the road, the village they found by the light of that ship in the sky, which shone all round. And just before dawn, at the paling of the sky, the stranger returned and said, "Now I must fly. When 2,000 years of your time has gone by, this song will begin once again to a baby's cry." come fa a non piacerti un pezzo così, Maurizio? Posso dirti una cosa? L'ho sentito un sacco di volte e nel solo acustico che va in onda adesso in questo periodo, sono acustico natalizio che va in onda a una certa ora di notte, l'abbiamo eseguito parecchie volte. Io preferivo quell'altro di Michael... ecco, è proprio questo preferivo, che è meraviglioso secondo me. Ma insomma, Mike Oldfield non si discute. Quindi... Esattamente, fammi sentire un pezzettino, dai. Sei contento adesso? Sì, il dolce giubilo di Mike Oldfield. Mike Oldfield è un musicista straordinario. È stato quello che ha inventato la Vergi, visto per dire qualcosa. Senza di lui la Vergi non sarebbe nata. Cosa dice Alessandro, visto che sei arrivato? Ciao Ale. Ciao a tutti, dico. È arrivato anche Sergio, è nascosto, ma dopo... Ciao Sergio. Dimmi Alessandro, no. Parlavamo di Mike Oldfield. La Virgin è una grandissima casa discografica. È stata inventata giusto? Da lui grazie ai Tubular Bells, ti ricordi? Sì. È vero, anche Cesare ha detto di sì, conferma assolutamente. Tubular Bells è stato un successo mondiale anche per via del film dopo. L'esorcista, giusto? Esattamente, è stata consonante dell'esorcista, quindi è un successo. Poi l'importanza di un disco di Michael Oldfield è stata che lui ha suonato tutti gli strumenti, la prima volta in assoluto, tutti gli strumenti li ha suonati. L'ha fatto anche Lenny Kravitz comunque molti quello anni dopo, eh? Però un po' di anni dopo, assolutamente. Prince, so che ami molto Prince. Lenny Kravitz. E anche Prince, lo so che ami molto Lenny anche Kravitz. Prince, vero. Esattamente. Ale, dimmi. Le trombe per te. Il dolce giubilo per l'arrivo di Alessandro. Di Alessandro e di Sergio. La conosci questa? No. Si chiama Fermate la cavalleria, Stop the Cavalry, ed è di John Lewis. Canzone vecchissima. Sì, sì, decisamente. È per quello che non la conosco allora. Questo è un disco che dovete acquistare, si chiama The Number One The Christmas Album, contiene 40 canzoni, una più bella dell'altra, per chi ama la musica natalizia. Ovviamente. Io avevo proposto a Cesare qui presente di fare un pezzo dei Beach Boys. Anche i Beach Boys hanno fatto un pezzo natalizio. Chiaramente non abbiamo i Beach Boys. Non abbiamo i Beach Boys. No, più che altro non è stato possibile. Però i Beach Boys hanno fatto un Christmas album famoso negli anni 60. E poi c'è Phil Spector che ha fatto le cose famosissime negli anni 60 con la musica soul. Sempre di Natale. Cosa dici Alessandro? Antonella, pardon, sei d'accordo? Tu che ami il Christmas. Stavo pensando se prima abbiamo detto Natale alle Maldive con la parentesi estiva, adesso Natale in California. In California, assolutamente. I beati che fanno Natale appunto con l'albero e la maglietta a maniche corte. Certo, certo, certo. Phil Spector, meraviglioso. Non volevi i Beach Boys? Sono loro. Le voci di Beach Boys sono voci incredibili, inconfondibili. Anche quei pezzi natalizi sono sempre loro, assolutamente. Allora, cosa ci facciamo di regalo adesso, come musicalmente parlando? Dunque, abbiamo scelto Bianco Natale, mi pare, vero? No. Have Yourself Merry Little Christmas. Ah, perfetto. Visto che è arrivato Ale, lo facciamo cantare subito. Facciamo cantare lui, dai. Cosa ci dici su questo pezzo? Te lo dico dopo. Adesso prima lo canti. Siete pronti? Sì. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year our troubles seem so far off sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year, our troubles will be miles away. Once again, wearing olden days, happy golden days of your faithful friends who are near to us, will be near to us once more. Someday soon we all will be together. If the fates are low, until then we have a mother through someone. Have yourself a merry little Christmas now. Yourself a merry little Christmas now. Atmosfere quasi di Frank Sinatra, Maurizio. Sì, loro non sono Judy Garland, però va bene lo stesso. Assolutamente. Questa è una canzone del 1943, caro Alessandro. Ed è stato il pezzo più riproposto da, mi sembra, non vorrei dire una cavolata, 1000 artisti, può sì, essere, sì, l'abbiano fatta. Frank Sinatra l'ha riproposto nel 47, nel 57 e nel 63. Ecco. Quindi abbastanza. E chi è stato il primo? E dunque, il primo in assoluto è stato Judy Garland, cantarla, assolutamente. Nel 1900, adesso ti dico proprio, sì, nel 43 esattamente. Judy Garland è stata la prima in assoluto. Voi non siete Judy Garland, però l'avete seguita bene, assolutamente, decisamente. È tratta da un film anche questo, in ogni caso. E poi l'ha fatta anche Mike Bublé. Purtroppo. L'ha sapere, fatto anche lei, anche lui, assolutamente. È un e classico. Mi piace Mike Bublé. Dimmi. Però. Mi piace molto, sì, assolutamente. No, beh, bravo, io sto scherzando, assolutamente stiamo scherzando. Ci sono dei giovani che però, se non ci fosse Michael Bublé, non avrebbero mai sentito determinati pezzi. Sono d'accordo nessuno, con te. Sono d'accordo con te. Chi fa swing? Io sto assolutamente scherzando. La versione di Michael Bublé è molto swing, perché lui è un musicista swing al 100%. Onore al merito, assolutamente. Ci sono giovani che non si sarebbero mai incontrati senza aver soltanto Michael Bublé. Ah, questo esatto. È vero, sì. È una, cioè una difesa fortissima di Michael Bublé stasera, ed è giusto che sia questa. È uno dei miei preferiti. Bene, ok, benissimo. Benissimo, non capisci niente di musica, Alessandro. Ecco. No, assolutamente, non mi permetterei mai. In ogni caso, questa era una riproposizione di un pezzo sempre americano, assolutamente americano, perché lo swing, stasera abbiamo proposto tanti pezzi swing, colorati nella maniera giusta, secondo me. Perché lo swing nelle vostre corde e compagnie, è vero? Siete d'accordo? A me piace tantissimo. Parli anche per gli altri, chiaramente, Alessandro. Sì, a me e a tutti. A me e a Muse piace amici. Tantissimo. Alla compagnia. Ai miei amichetti. Che siamo tutti buoni. Bene. Allora, mancano circa una ventina di minuti alla fine della trasmissione. Abbiamo ancora... Sì, abbiamo ancora, sì. Tre canzoni. Sì, tre canzoni, però sai, possiamo allungarle o possiamo anche fare una pausa, mettere un altro pezzo dalla famoso compilation che hai davanti. Vediamo che pezzo adesso scegli. Ma vuoi fare qualcosa dal disco adesso? Beh, poi facciamo qualcosa del disco e poi facciamo il rush finale, dai. E cosa vuoi ascoltare? No, è una compilation con un sacco di pezzi. Cita qualche titolo, dai, che bisogna essere davanti. Happy Christmas. No. No, quello no, assolutamente no, perché quello è la compagnia. Un pezzo che non è inflazionato, vogliamo sentire. Ecco. Vabbè, allora io propongo Ornella Vanoni, va bene? E quello è inflazionato all'epoca. Sì, Ornella Vanoni, che facciamo un pezzo. Ne approfitto perché faccio un po' di pubblicità. Ornella, sì, che viene qui a Padova a gennaio. Sì, esattamente. Potrebbe essere uno spunto per far ascoltare Still and Act. Dimmi tu. Non c'è un pezzo di Pooh. Sì, che c'è. Purtroppo c'è un pezzo di Pooh. Ecco, dobbiamo dire una cosa: la versione di Pooh è una versione. E basta. È solo una versione, ragazzi. Ripeto, John Lennon, allora, è John Lennon. Facciamo una via non di mezzo. Niente da fare. Vuoi una versione, una canzone nuova? Facciamo. C'hai anche i Queen là, mi pare. Aspetta. I Queen, sì, i Queen. Queen non sbagliamo. No, non ci sono i Queen. Sì, nella compilation ce l'hai, sì. Nel Natale con i tuoi. Ah, no, non parlavo di quello. No. Da tra quelli tuoi, ripetiamo, è solo una compilation di musica italiana, di artisti italiani. Per la prima e l'unica volta nessun'altra compilation è stata stampata in Italia di Natale, perché in Italia la discografia italiana non ha la volontà, o meglio non ha la capacità di fare dischi di Natale. Adesso quel tempo è stato fatto, però una volta per vent'anni a questa parte non è stato stampato nessun disco di Natale. No, dico una cosa, se non l'avete già detto, anche Baglioni l'abbiamo citato. Io sono arrivato l'abbiamo citato. Tu se ne pensi, visto che siamo qua, il disco di Baglioni? Non l'ho ascoltato. Non l'hai sentito? Ho ascoltato un po' la traduzione di Have Yourself. Sì, il Ted Christmas. Non suona uguale. Non si possono tradurre i classici, secondo me. Non so se siete d'accordo. Non si possono tradurre. Sono d'accordo. Possiamo fare un'eccezione per White Christmas? Sì. E basta. Ok. Allora, cambio disco, se mi lasciate il tempo. Certo, tu hai ho già visto cosa hai scelto. Cosa hai scelto? Ma ho visto la copertina, adesso vediamo subito. È tutto live, anche il cambio del disco. Michael Bolton, ti va bene? Sì, è bellissimo quello di Michael Bolton, perché non mi è venuto in mente? La stessa espressione tua, uguale. Avete presente quando la mattina i bambini aprono il regalo di Babbo Natale e c'è proprio quello che avevano scritto sulla letterina? Cosa è venuto fuori Michael Bolton. Sentiamo questo musicista. Vi va bene perché a questo punto devo fare su vostra richiesta, insomma. Vi va bene Joy to the World? Sì, bellissima. Io preferirei nella versione di l'Ave Maria di con Placido Domingo. Facciamo Michael Bolton. No, è sempre Michael Bolton. Sì, lo so. No, facciamo Joy to the World, che è un classico natalizio. Io lo ricordo nella versione di Susie Stevens, che abbiamo citato con Antonella. Ripeto, che ha fatto una compilation di Natale molto interessante. Tanti gruppi, anche i Train hanno fatto un pezzo Joy to the World recentemente. Train è un gruppo californiano. Io invece l'amo nella versione di Teddy Pendergrass. Lo so, adesso sentiamo quella di Michael Bolton. Allora. Ok. Oh, al cielo lento che con la neve dona a noi un Natale pieno d'amor, un Natale di felicità. Grande Ale, grande Laura, complimenti. E complimenti a tutti voi, insomma, come coristi. Benissimo, benissimo. Abbiamo detto rush finale, siete pronti? Prontissimi? Prontissimi. Andiamo subito a un altro pezzo, che cosa? Adesso quello... c'è 2 secondi di assestamento. Sì, assestamento, un secondo. Io direi rush Natale più che rush finale. Rush Natale. Ecco, sta arrivando anche la tastiera adesso. Tutto in diretta, assolutamente tutto in diretta. Mancano pochissimi minuti, ormai è la fine della trasmissione. E siamo sempre qui comunque a Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spolore, che assieme a Maurizio Calzavara vi vogliamo regalare questa serata di musica di Natale. Se sentite rumori, adesso chiudo il microfono perché altrimenti poi non si capisce poi più niente. Stanno sistemando appunto anche la loro strumentazione. Dicevo, insieme alla compagnia Mouge stiamo cercando, insomma, di regalarvi 3 ore di buona, tra virgolette, musica natalizia, giusto per regalare questo spazio anche a tutto il mondo, perché praticamente in streaming ci stanno ascoltando ovunque. Quindi io ne approfitto per salutare gli amici australiani che sono sempre in ascolto, poi ancora quelli africani da un po' di tempo a questa parte, e poi abbiamo anche gente dall'America, insomma dall'Argentina, da New York, da Honolulu. Abbiamo un po' di ascolti sparsi nel nostro emisfero, e quindi insomma buon ascolto e buon Natale soprattutto a voi, insomma, che siete sintonizzati su Blu Radio Veneto. Io, prima di salutare, Maurizio, ci sei? Sì, ci sono, sto cercando, sono messo in un angolino perché è arrivata la tastiera, sì, quindi quando arriva la tastiera mi devo mettere in un angolino. Ah, perché è lui che fa la canzone con la tastiera. Esattamente, insomma, certo. Adesso... Allora, prima magari, così magari poi non facciamo i saluti finali, Maurizio. Sì. Ricordiamo che, meno per quanto mi riguarda, questa è la mia ultima trasmissione nel 2012. Sì, perché dopo tu andrai in vacanza. Sì, esatto, e quindi ritornerò ai primi di gennaio con una band, il Vaso di Pandora, vi ricordo. E ne approfitto per ringraziare tutto, perché per me è stato un anno splendido, è stato un anno che ricorderò per tantissimi motivi, e mi ha regalato veramente tantissime emozioni, tante gioie, e sono fiero e onorato di essere stato preso così tanto in considerazione da molta gente sparsa per l'Italia. Insomma, io ringrazio di cuore, con affetto, a tutti voi che mi avete dato queste gioie. Maurizio. Sì, i ragazzi hanno deciso di fare un cambiamento di scaletta, non cambiamento di scaletta, solamente una versione un po' diversa. Sì, un jingle bell in italiano, abbiamo deciso di far questo per cambiare, per fare una diversità, chiaramente. Sempre però rigorosamente in versione swing. Quella è assolutamente la chiave di volta, non deve mancare una versione swing. Adesso Se mi fate sapere cosa volete fare, perché sì, non ho ancora capito facciamo cosa. Facciamo Jingle Bang versione swing. Ah, non fate più Do They Know It's Christmas? Adesso vediamo. Dopo. Ma abbiamo 10 minuti. Adesso vediamo, adesso partiamo, siamo quasi pronti praticamente. Tutto in diretta, assolutamente. Va bene. Mi fido di te, Maurizio. Eccoci qua, adesso ci siamo. Sergio sta limando le note ed è quasi pronto. Work in progress. Ci siamo. Ok. Potete andare. Ci siamo. Scatenati, scatenati, ancora scatenati con... Hanno ripreso vigore, hai visto Maurizio? Con Sergio. È straordinario, abbiamo messo la tastiera in qualche secondo, via, siamo partiti. Questo è live, pazzesco, assolutamente pazzesco. Live. Cos'è questo? È Tubular Bass. Tubular Bass, esatto, abbiamo citato Mike Oldfield prima. Allora, c'è Do They Know It's Christmas, sì, e poi ci salutiamo. Sì, con... esattamente. Poi ci salutiamo e poi è una sorpresa il saluto finale. Ah, e con cosa, come lo fanno? Adesso facciamo Do You Know It's Christmas. Sì, ma come lo fanno? Con la tastiera o con... Adesso vediamo. Con la base. Oh, ok, quando siete pronti me lo dite. Pronti. Siete pronti. Ok, andiamo. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in a world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer to pray for the other ones at Christmas time. It's hard, but when you're having fun, there's a war outside your window, and it's a war of dread and fear. Well, the only water flowing is the bitter sting of tears. And the Christmas bell that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight, thank God, he's all of you. And the warm is known in Africa this Christmas time. The greatest gift they get is here. Life, oh, where nothing no rain, no rivers flow. Do they know it's Christmas time at home? Here's to you, raise the glass for everyone. Here's to them underneath the lonely sun. I Band-Aid li avevamo qui questa sera. Esatto. Bene. E Cesare sembrava proprio Bob. Bob Geldof. Maurizio, a te la parola. Sì, abbiamo finito. Abbiamo finito questa bellissima cavalcata di musiche di Natale. Ribadisco, non prettamente tradizionali. Questa è l'importanza. L'idea è partita da me e da Agostino con la compagnia di Muse di fare dei pezzi natalizi, sì, tradizionali e quelli non tradizionali. Per scoprire, fare una versione diversa. E adesso come possiamo concludere? Concludiamo con un pezzo storico. Perché è giusto così, un tributo, un omaggio a quello che ha scritto la più bella, ribadisco, la più bella canzone di Natale. Loro si stanno sistemando. Li salutiamo, ci salutiamo sì, qui. Certamente, Maurizio. Certamente. Allora, buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Da Blu Radio Veneto, da Agostino, da Maurizio e anche da Gilles, ovviamente. L'appuntamento, come sempre, nelle nostre frequenze 88.794-600 MHz in modulazione di frequenza. Che il 2013 sia un anno splendido per tutti voi, pieno di musica e di serenità, come piace dire tanto al sottoscritto. Grazie ancora di tutto, grazie ancora a Elisabetta Nallone, Antonella Scambia, Francesca Micheletti, Giulia Allegro, Cesare Bortolotto, Davide Cirillo, Laura Tonnarelli, Giulio Di Vittorio, Elena Maci, Erika Zanchetta, Umberto Peroni, Martina Pinton, Adriano Pellegrini alla chitarra, Alessandro Papalardo e poi Sergio Buson che ci hanno raggiunti dopo, un po', insomma tra mezz'oretta fa praticamente. E ringrazio Giovanna Reinato che è stato qui con me, che mi ha aiutato nella regia e anche nella scaletta delle canzoni. Un grazie di cuore alla compagnia Muse, grazie ragazzi. Non ho parole. Cesare. Grazie a voi, buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale a tutti. E così è Natale: per i deboli e i forti, per i ricchi e i poveri. Il mondo è così sbagliato. Buon Natale e felice anno nuovo. Speriamo sia un buon anno, senza timori né paure. So this is Christmas, and what have we done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas. Thank you. Buon Natale.